Libro dei Giubilei. 31. E, all'inizio del mese, Giacobbe parlò a tutti gli uomini della sua casa dicendo: purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo e saliamo a Betel dove, quando fuggii dal cospetto di mio fratello Esau, ho pregato. E il Signore, che era con me, mi ricondusse, in pace, in questa terra. Rimuovete gli dei stranieri che sono fra voi. E presero con la forza gli dei stranieri e quel che era sui loro petti e sulle loro orecchie e gli idoli che Rachele aveva rubato a Labano, suo padre, e che aveva tutti dato a Giacobbe. E li bruciò, fracassò, distrusse e nascose nel querceto che era nella terra dei Sichemiti. E salì, all'inizio del settimo mese, a Betel. E costruì l'altare nel luogo dove aveva dormito, e aveva lì messo il cippo, e mandò a dire a suo padre Isacco, e a sua madre, Rebecca, di andare da lui, all'altare. E Isacco disse: venga mio figlio Giacobbe che io lo veda prima di morire. Levi e Giuda. E Giacobbe andò da suo padre, Isacco, e da sua madre Rebecca, nella casa di suo padre Abramo, e prese seco due dei suoi figli, Levi e Giuda, e venne da suo padre Isacco e da sua madre Rebecca. E Rebecca uscì dalla torre, nel vestibolo della stessa, per baciare ed abbracciare Giacobbe poiché il suo spirito rivisse allorché le dissero: ecco, tuo figlio Giacobbe è giunto, e lo baciò. E vide ambedue i suoi figli, li conobbe e disse: questi, o figlio mio, sono i tuoi figli? Li baciò, abbracciò e benedisse dicendo: sia onorata, in voi, la stirpe di Abramo e voi sarete per la benedizione sulla terra. E Giacobbe, insieme coi due suoi figli, entrò da suo padre Isacco, nella camera ove egli giaceva, prese la mano di suo padre e, inchinatosi, lo baciò. E Isacco si strinse al petto del figlio Giacobbe e pianse sul suo petto. E le tenebre si dileguarono dagli occhi di Isacco ed egli vide i due figli di Giacobbe, Levi e Giuda e disse: sono i tuoi figli, figlio mio? Infatti ti assomigliano. Ed egli gli disse che essi erano per davvero suoi figli e, disse, hai visto giusto che, per davvero, essi sono miei figli. Essi si avvicinarono a lui, si girarono ed egli li baciò ed abbracciò tutti insieme. E uno spirito di profezia discese sulla sua bocca ed egli prese Levi con la sua mano destra e Giuda con la sinistra. E si girò verso Levi e cominciò a benedirlo per primo e gli disse: benedica il Signore, Dio di tutto, Signore di tutti i secoli, te e i tuoi figli, in eterno. E dia il Signore, a te e alla tua stirpe, grande onore e avvicini a esse, stesso, più di tutti, coloro, che di carne, te e la tua stirpe, affinché lo serviate nel suo santuario come gli angeli facei e i santi. La stirpe dei tuoi figli sarà come loro per la gloria, la grandezza e la santità. E li renda grandi nei secoli. E siano giudici, principi e capi a tutta la stirpe dei figli di Giacobbe. Essi diranno, con giustizia, la parola del Signore, giudicheranno con giustizia tutto quello che per lui è legittimo, e diranno a Giacobbe il nuovo modo di agire, e le rivelazioni a Israele. La benedizione del Signore sarà messa sulle loro bocche affinché benedicano tutta la stirpe dell'amato. Tua madre ti ha chiamato Levi e chiamò giustamente il tuo nome. Sarai congiunto al Signore e socio di tutti i figli di Giacobbe. La sua mensa sia tua e tu, e i tuoi figli, mangiatela. E sia la tua mensa piena per tutte le generazioni e non venga a mancare, nei secoli, il tuo cibo. E tutti coloro che ti odiano ti cadranno innanzi, tutti i tuoi nemici saranno sradicati e si perderanno. E sian benedetti quelli che ti benedicono e maledetti quelli che ti maledicono. E disse a Giuda, ti dia, il Signore, forza e fermezza sì che tu possa calpestare tutti quelli che ti odiano. Sii principe, tu ed uno dei tuoi figli, ai figli di Giacobbe. Il nome tuo, e quello dei tuoi figli sia, tale, che vada e cammini in tutta la terra, e i paesi. Allora i popoli temeranno al tuo cospetto e tutte le nazioni e tutti i popoli si agiteranno. Sia, in te, l'aiuto di Giacobbe, e si trovi, in te, la salvezza di Israele. E quando starai sul trono dell'onore della tua giustizia, sarà gran pace per tutta la stirpe dei figli dell'amato. Sia benedetto chi ti benedice e coloro che ti odiano, ti affliggono e ti maledicono siano sradicati e perduti dalla terra e siano maledetti. E, giratosi, lo baciò una seconda volta, lo abbracciò e si rallegrò assai perché aveva visto i figli di Giacobbe, suo figlio, che nella verità. E uscì di fra i suoi piedi, cadde e si prostrò a lui, e li benedì ed egli si riposò colà, vicino a suo padre Isacco, in quella notte, e mangiarono e bevvero in allegria. E mise a dormire i due figli di Giacobbe, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra e gli fu imputato a giustizia. E Giacobbe disse, durante la notte, tutto a suo padre, come il Signore aveva usato grande benevolenza con lui, come gli aveva reso prospere tutte le sue vie e lo aveva protetto da ogni male. E Isacco benedì il Dio di suo padre Abramo che non aveva negato la sua misericordia e la sua giustizia al figlio del suo servo Isacco. E, all'alba, Giacobbe disse a suo padre Isacco la preghiera che aveva indirizzato al Signore, la visione che aveva vista, in qual modo aveva costruito l'altare e tutto era pronto per fare il sacrificio innanzi al Signore, così come aveva fatto voto, e che era venuto per caricarlo sull'asino. Ed Isacco gli rispose, «Io non posso venire con te perché sono invecchiato e non posso sopportare il viaggio. Va, figlio mio!» In pace, poiché io ora ho 165 anni e non posso viaggiare. Carica tua madre e parta, ella, con te. Io so, figlio mio, che tu sei venuto per causa mia e sia benedetto questo giorno nel quale tu mi hai visto vivo ed anche io ti ho visto. Prospera, o figlio mio. E adempi al voto che facesti e non rimandarlo. Ti se ne domanderà conto? E, anche ora, affrettati a fare la tua preghiera e colui che ha fatto il tutto gradirà la preghiera che tu farai. E disse a Rebecca, Va con tuo figlio Giacobbe. E Rebecca, insieme con Deborah, andò con Giacobbe e giunsero a Betel. E Giacobbe ricordò la preghiera con cui il padre suo aveva benedetto lui e i suoi due figli Levi e Giuda, si rallegrò e benedì il Dio dei suoi padri Abramo e Isacco. E disse, adesso so che, al cospetto del Dio di tutti, vi è, per me e per i miei figli, una speranza eterna e, a proposito di loro due, è stato stabilito così, così come li benedì Isacco, li eleveranno, a testimonianza eterna, nelle tavole del cielo. Levi. Ed egli passò quella notte in Betel, e Levi sognò che al sacerdozio di Dio Altissimo avevano nominato, e destinato lui, e i suoi figli in eterno. Si svegliò dal sonno e benedisse il Signore. E Giacobbe si alzò di buon mattino, all'alba del 14 di questo mese e dette la decima di tutto quel che era venuto con lui. Dagli uomini agli animali, dall'oro a tutti gli oggetti e vestiti la decima di tutto. In quei giorni Rachele concepì Beniamino, suo figlio e Giacobbe contò, da lui, i suoi figli e salì e scese su di lui, su Levi, in porzione del Signore e suo padre lo vestì degli abiti sacerdotali e gli riempì le mani. Ed il 15 di questo mese portò sull'altare, fra i bovini, 14 tori, 28 arieti, 49 pecore, 60 agnelli, e 29 capretti. In olocausto sull'altare ed in offerta gradita, dal profumo soave, innanzi al Signore Iddio e, cioè, il dono dal voto che aveva fatto, che avrebbe dato le decime insieme con le loro offerte e le loro libagioni. E mentre il fuoco lo consumava, egli bruciava l'incenso sul fuoco e, sui sacrifici di salvezza, 2 tori, 4 arieti, 4 pecore, 4 caproni e 2 pecore, ognuna di un anno, e 2 capretti. Così faceva, all'alba, per 7 giorni. Ed egli, i suoi figli e la gente stavano colà, a mangiare, allegramente, per 7 giorni ed egli benediceva e lodava il Signore che lo aveva liberato da tutte le sue tribolazioni e lo aveva esaudito nelle sue preghiere. E offrì, in decima, tutti gli animali puri, fece sacrificio e gli animali impuri, li dette a Levi, suo figlio, e gli dette, anche, le anime degli uomini. E Levi si fece sacerdote, in Betel, al cospetto di suo padre Giacobbe a preferenza dei 10 suoi fratelli e stette colà come sacerdote. E Giacobbe gli affidò il suo voto. E in tal modo Levi offrì per la seconda volta la decima al Signore, la consacrò e gli fu sacra. E perciò è stabilita, nelle tavole del cielo, la legge di offrir la decima una seconda volta per mangiarla al cospetto del Signore nel luogo dove è stato scelto che vi sia, sopra, il nome di Lui, di anno in anno e non vi è, a questa legge, limite di tempo, in eterno. Ed è norma scritta, da attuare di anno in anno, di mangiar, una seconda volta, le decime al cospetto del Signore, nel luogo prescelto, e non ne devono avanzare, da quest'anno, per l'anno successivo. poiché si deve mangiare il seme nel suo anno, fin quando passa la seminagione annuale, e il vino fino al tempo dell'uva e il periodo dell'olio, e fino al tempo dell'uliva. E tutto quel che avanza e invecchia sia considerato contaminato, lo si bruci al fuoco poiché è diventato impuro. E, pertanto, lo mangino insieme, nel santuario, e non lo lascino invecchiare. E avvenga che tutte le decime di vacche e pecore, consacrate al Signore e ai suoi sacerdoti, le mangino innanzi a Lui, di anno in anno, poiché così è stabilito e scolpito, quanto alle decime, sulle tavole del cielo. E in un'altra notte, il 22 di questo mese, Giacobbe si propose di costruire in quel luogo un'area recintata, di consacrarla e di farla santa per lui e i suoi figli, dopo di lui, in eterno. E il Signore gli apparve di notte, lo benedì e gli disse, «Il tuo nome non si chiamerà solo Giacobbe, ma Israele». E gli disse, «Per la seconda volta, io sono il Signore, tuo Dio, che ho creato il cielo e la terra, e ti farò grande e ti moltiplicherò assai». Da te usciranno re e domineranno ovunque l'orma del piede dei figli dell'uomo abbia calcato. Io darò alla tua stirpe tutta la terra che è sotto il cielo ed essi domineranno su tutti i popoli, come vorranno. E poi raduneranno tutta la terra e la erediteranno per l'eternità. Finì di parlare con lui. Salì da lui e Giacobbe lo vide fin quando salì nel cielo. E vide, in una visione di notte, un angelo scendere dal cielo con sette tavole nelle mani, darle a Giacobbe e leggergli tutto quel che vi era scritto, quel che sarebbe accaduto a lui e ai suoi figli in tutti i tempi. Gli mostrò tutto quel che era scritto sulle tavole e gli disse, «Non costruir questo luogo, non farlo santuario in eterno e non restar qua poiché questo non è il luogo. Va alla casa di Abramo, tuo padre, e rimani colà presso tuo padre Isacco fino al giorno della morte di tuo padre». Poiché tu morrai in pace in Egitto e in quella terra sarai seppellito, con onore, nel sepolcro dei tuoi padri, con Abramo e Isacco. Non temere. Poiché, come hai visto e letto, così accadrà tutto. Scrivi anche tu tutto, come hai visto e letto. E Giacobbe disse, «Come ricorderò tutto quel che ho visto e letto?» Egli disse, «Io ti rammenterò ogni cosa», ed ascese da lui. E si destò dal suo sonno e ricordò e scrisse tutto quel che aveva visto e letto. E operò, colà, ancora per un giorno e sacrificò in esso proprio come aveva sacrificato nei giorni precedenti e quel giorno lo chiamò aggiunta. Perché quel giorno era stato aggiunto e i precedenti li chiamò festa. E così gli sembrò che fosse quel giorno e che fosse scritto nelle tavole del cielo e, perciò, gli fu manifesto che egli lo dovesse celebrare e lo dovesse aggiungere ai sette giorni di festa. Ed esso fu chiamato aggiunta. Perché che si offrono sacrifici, in testimonianza del giorno e, come festa, nel numero dei giorni dell'anno. Beniamino. E nella notte del 23, di questo mese Debora, la nutrice di Rebecca, morì e la seppellirono parte inferiore del paese, sotto una quercia del fiume e chiamò quel fiume. fiume di Debora. E la quercia, quercia, pianto di Debora. E Rebecca andò e rientrò in casa sua, presso il padre di lui, Isacco, e Giacobbe inviò, a mezzo di lei, agnelli, pecore e arieti affinché ella facesse, a suo padre, cibo come egli voleva. Ed egli andò al seguito di sua madre fino ad avvicinarsi al territorio di Cheberatan e passò la notte colà. E Rachele generò, la notte, un figlio e lo chiamò figlio del mio dolore. Poiché soffrì assai nel generarlo e il padre lo chiamò Beniamino, l'undici dell'ottavo mese del primo anno del sesto settennio di questo giubileo. E Rachele morì colà e fu sepolta nella terra di Efrata, cioè Betlemme, e Giacobbe costruì, sulla tomba di Rachele, un cippo sulla strada. Ruben. E Giacobbe andò e passò la notte, verso sud, a Migdal Eder. E andò da suo padre, Isacco, lui e la sua moglie, all'inizio del decimo mese. E Ruben vide Bila, serva di Rachele e concubina di suo padre, mentre ella si lavava nell'acqua, di nascosto, e se ne innamorò. E si nascose, di notte, ed entrò nella casa di Bila, di notte, e la trovò coricata, sola, nel suo letto e dormente nella sua casa. E si coricò con lei. Ella si svegliò, vide Ruben coricato con lei nel letto, scoprì le proprie coperte, lo prese, gridò, conobbe che era Ruben, si vergognò, tolse le proprie mani da sopra di lui ed egli fuggì. Ed ella piangeva assai, per questo fatto, e non lo disse ad alcuno. E quando venne Giacobbe e lacerò, ella gli disse, non sono pura per te perché sono stata contaminata, lontana, da te dato che Ruben mi ha insozzata e si è coricato con me, di notte. Io dormivo e non me ne sono accorta fin quando egli scoprì la mia veste, e si coricò con me. E Giacobbe si adirò assai contro Ruben perché, dato che si era coricato con Bila, aveva scoperto la copertura di suo padre, e non la avvicinò più. Perché Ruben l'aveva insozzata, e riguardo a ogni uomo, poiché aveva scoperto la copertura di suo padre e poiché la sua azione è assai brutta e riprovevole al cospetto del Signore. Perciò, che un uomo non si corichi con la donna del proprio padre e non scopra la copertura del proprio padre, poiché è impuro. È scritto e stabilito nelle tavole del cielo, muoia, no, insieme, colui che si corica con la donna del proprio padre e la donna, dato che hanno commesso impurità sulla terra. E non sia, al cospetto del nostro Signore, impurità in mezzo al popolo che egli si è scelto in proprietà. Ed è nuovamente scritto, sia maledetto colui che si corica con la donna del proprio padre perché ha scoperto le pudenda di suo padre. E tutti i suoi santi dissero al Signore, sia sia. E anche tu, o Mosè, ordina ai figli di Israele che rispettino quest'ordine poiché condanna di morte. Ciò è impuro e, in favore di colui che commette questa bruttura, oltre che condannarlo a morte, ucciderlo, esser lapidato e sradicato di fra il popolo del nostro Dio. Non vi è remissione da impetrare, e non avrà vivere per un sol giorno sulla terra chiunque faccia ciò in Israele, poiché è spregevole ed immondo. E non si dica che, per Ruben, mentre si era coricato con la concubina di suo padre, vi fu il vivere e il perdono e anche per lei, mentre aveva il marito vivo, Giacobbe, padre di lui, perché non aveva ancora manifestato, fino ad allora, la regola, la condanna e la legge perfetta per tutti. Poiché, al tuo tempo, come legge temporanea nel tempo è legge eterna per le generazioni, nei secoli. E non vi è, per questa legge, limitazione di tempo, non alcun perdono per questo, se non che siano sradicati ambedue, insieme, da mezzo al popolo, li uccidano nel giorno in cui l'hanno fatta. Ed anche tu, o Mosè, scrivi per Israele che guardino essa e non agiscano in tal modo, e non facciano un peccato mortale. Poiché il giudice, cioè il Signore, nostro Dio, non guarda in faccia ad alcuno e non accetta doni di corruzione. E di ad essi questa parola della legge ed essi ascoltino, stiano accorti, si guardino da essi, e non periscano, e non siano sradicati dalla terra a causa delle impurità, dell'abominio, e della immondezza di tutti coloro che la commettono in terra, al cospetto del nostro Dio. E non vi è peccato maggiore della fornicazione che fornicano sulla terra, dato che Israele è popolo santo al Signore. Popolo della eredità per il suo Dio, popolo di sacerdozio e di regno, è proprietà ed una tale impurità non può apparire in mezzo a un popolo santo. E nel terzo anno di questo sesto settennio, Giacobbe e tutti i suoi figli si misero in viaggio e pernottarono in casa di Abramo, vicino a suo padre Isacco e a sua madre Rebecca. E questi sono i nomi dei figli di Giacobbe, primogenito Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, e Zabulon, figli di La. E i figli di Rachele, Giuseppe, e Beniamino. E i figli di Bila, Dan, e Neftali. E i figli di Cilpa, Gad, e Aser. Dina, figlia di La, unica figlia di Giacobbe. E, arrivati, si prostrarono a Isacco e a Rebecca, e quando li videro, benedirono Giacobbe e tutti i suoi figli. E Isacco si rallegrò assai, perché aveva visto i figli di Giacobbe suo figlio minore e li aveva benedetti. XXXIV. E nel sesto anno di questo settennio di questo 44° giubileo Giacobbe mandò i suoi figli, insieme coi suoi servi, perché portassero al pascolo, nei prati dei Sichemiti, le sue pecore. E, contro di loro, si congregarono i sette re degli Amorrei per ucciderli, essendosi nascosti sotto gli alberi. E per catturare i loro animali e le loro donne. E Giacobbe, Levi, Giuda e Giuseppe stavano in casa, dove stava loro padre Isacco? Poiché era triste di spirito, ed essi non avevano voluto lasciarlo. E Beniamino era il minore e, perciò, stava presso suo padre. E vennero i re di Tafe, i re di Aresa, i re di Sagaran, i re di Selo, i re di Gaetz, il re di Betoron e il re di Maenisachir. E tutti costoro che stavano su questo monte. Quelli che stavano nel bosco, terra di Canaan. E annunziarono a Giacobbe che i re degli Amorrei avevano circondato i suoi figli e li avevano rapinati del loro gregge. E partì dalla sua casa lui e i suoi tre figli e tutti i servi di suo padre e i suoi servi e, in 800 uomini portatori di spade, andarono contro di loro. E li uccisero nei pascoli dei Sichemiti, inseguirono i fuggitivi e li uccisero sulla punta delle loro spade e uccisero Aresa, Tafu, Seragen, Selo, Amanisachiro e Gegas. E raccolse il suo gregge e prevalse su di loro e stabilì un tributo su di loro, che gli dessero, in tributo, 5 prodotti della loro terra ed egli costruì Ruben e Tamnatares. E se ne ritornò in pace, fece pace con loro ed essi gli furono servi fin quando egli e i suoi figli scesero nella terra di Egitto. E nel 7° anno di questo settennio mandò ai Sichemiti, dalla sua casa, Giuseppe perché si informasse della buona salute dei fratelli e li trovò nella terra di Dotan. E lo ingannarono e fecero un complotto contro di lui, per ucciderlo e, ritornati, lo vendettero ai mercanti ismaeliti e lo fecero scendere in Egitto e lo vendettero a Potifar, eunuco del faraone, capo dei cuochi, sacerdote del paese di Eleu. E i figli di Giacobbe sgozzarono un capretto e macchiarono di sangue il vestito di Giuseppe e lo mandarono, il giorno 10 del 7° mese, a Giacobbe, loro padre. E stettero tutto quel giorno, fino a sera, e glielo portarono ed egli fu preso dalla febbre per il pianto della sua morte e dissero che una bestia feroce aveva divorato Giuseppe. E tutta la gente di casa sua rimase, con lui, quel giorno e stettero a dolersi e a piangere con lui per tutto il giorno. E i suoi figli e la sua figlia sorsero a consolarlo, ma egli, riguardo al figlio, non si consolò. E in questo giorno Bila apprese che Giuseppe era morto e, mentre lo piangeva, morì, ed ella stava a Kephtareteph. E anche Dina, sua figlia, dopo che Giuseppe era morto, morì. E capitarono ad Israele questi tre lutti in un mese. E seppellirono Bila di fronte alla tomba di Rachele e anche Dina, sua figlia, la seppellirono colà. Ed egli stette a piangere per Giuseppe un anno, e non la smise, perché diceva, scenderò nel sepolcro piangendo per mio figlio. Giorno di Atonement. E, perciò, fu stabilito, a carico dei figli di Israele, che si addolorassero il 10 del 7° mese, quando a suo padre Giacobbe giunse che gli fece piangere Giuseppe, affinché, in tal giorno, egli chiedesse perdono, per lui, con un capretto, il 10 del 7° mese, una volta all'anno, a causa del loro peccato. Perché avevano addolorato il sentimento del loro padre per il figlio Giuseppe. Ed è stato stabilito questo giorno affinché si addolorino, in esso, dei loro peccati, di tutte le loro colpe e dei loro errori per purificarsi, in questo giorno, una volta all'anno. E, dopo la perdita di Giuseppe, i figli di Giacobbe presero moglie, La moglie di Rubén si chiamava Ada. Quella di Simeone, Adiba, Cananea. Quella di Levi, Melca, una delle figlie di Aram, della stirpe dei figli di Taran. Quella di Giuda, Betusuel, Cananea. Quella di Issacar, Ezeca. Quella di Zabulon, Niiman. Quella di Dan, Egela. Quella di Neftali, Rasu che era di Mesopotamia. Quella di Gad, Mac. Quella di Aser, Iona. Quella di Giuseppe, Asenet, Egiziana. Quella di Beniamino, Iosca. E Simeone, essendo tornato, prese moglie da Mesopotamia, una seconda volta, come i suoi fratelli. 35. Rebecca. Nel primo anno del primo settennio del 45° giubileo Rebecca chiamò Giacobbe, suo figlio, e gli ordinò, a proposito di suo padre e di suo fratello, di onorarli per tutto il tempo della sua vita. E Giacobbe disse, «Io farò tutto quel che mi hai ordinato perché ciò è per me onore ed orgoglio ed è giusto, per me, al cospetto del Signore, che io li onori. Ed anche tu, o madre mia, conosci, da quando sono nato fino ad oggi, tutte le mie azioni e tutto quel che è nel mio cuore e come io pensi, sempre, al bene di tutti. E come potrei, io, non fare questa cosa che mi hai ordinato, che, cioè, io onori mio padre e mio fratello? E dimmi, madre mia, quale falsità hai mai visto in me? Io? Quanto a tenermi lontano, mi tengo lontano da essa e vi sarà, su di me, grazia. Ed ella gli disse, figlio mio, per tutti i miei giorni, non c'è falsità che io abbia visto in te e nessuna azione falsa, ma retta. Io in verità ti dico, o figlio mio, che io morrò in questo anno e che non l'oltrepasserò in vita poiché, in sogno, ho visto il giorno della mia morte e che non vivrò più di 155 anni. Ed ecco che io ho compiuto tutto il tempo della mia vita che io devo vivere. E Giacobbe rise per le parole di sua madre perché sua madre diceva che sarebbe morta ed ella stava davanti a lui, in forze. E non si era indebolita dalla sua energia poiché entrava e usciva, vedeva, bene, i suoi denti erano forti e, in tutto il tempo della sua vita, non la aveva mai toccata malattia. E Giacobbe le disse, «Beato me, madre mia, se il tempo della mia vita si avvicinerà al tuo e se, in me, la mia energia sarà come la tua. E tu non morrai perché tu, con me, parli a vuoto della tua morte». Ed ella entrò da Isacco e gli disse, «Ti chiedo una cosa». Fa giurare a Esau che egli non farà alcun male a Giacobbe e che non lo perseguiterà in inimicizia? Poiché tu conosci i pensieri di Esau, come egli sia, fin da piccolo, malvagio e come non vi sia, dato che egli vuole ucciderlo dopo la tua morte, bontà in lui. E tu sai quanto ha sempre fatto da quando Giacobbe, suo fratello, si reò a Arran, ad oggi? Tu sai come egli ci abbia abbandonato con tutto il suo cuore e come egli abbia agito male con noi. Egli raduò il tuo gregge e ti rapì tutti i tuoi beni, alla tua presenza, E mentre noi lo scongiuravamo, e pregavamo che era nostro, egli agiva come uno che ci largisse qualche cosa. Egli è adirato contro di te perché tu hai benedetto Giacobbe, il tuo figlio perfetto e giusto poiché, in lui, non vi è malizia, ma bontà. Ed egli, da quando venne da Arran ad oggi, non ci ha fatto mancare nulla poiché egli ci porta tutto, in ogni tempo, e si rallegra sempre, con tutto il cuore. Quando noi prendiamo qualcosa dalle sue mani e ci benedice, e non si è separato da noi da quando è venuto da Arran fino ad oggi, e sta sempre con noi, in casa nostra, onorandoci. E Isacco le disse, anche io conosco e vedo il modo di agire di Giacobbe verso di noi, e come egli ci onora con tutto il cuore. Io, prima, amavo Esau più di Giacobbe, fin da quando nacque, e adesso amo Giacobbe più di Esau dato che egli ha aumentato il suo agir male, e in lui non vi è giustizia. Poiché tutto il suo modo di agire è sopruso e violenza e, intorno a lui, non vi è giustizia. E, adesso, il mio cuore è agitato a causa di tutte le sue azioni e lui e la sua stirpe non sono a salvarsi poiché saranno perduti dalla terra e sradicati da sotto il cielo poiché egli e i suoi figli hanno abbandonato il Dio di Abramo. E sono andati dietro alle loro donne, dietro alla impurità e ai loro errori. Tu mi dici di fargli giurare che non ucciderà Giacobbe. Ma, anche se giura, egli non starà al suo giuramento e non farà bene, ma male. E, se vorrà uccidere Giacobbe, suo fratello, egli sarà consegnato in mano di Giacobbe e, poiché cadrà nelle sue mani, non sfuggirà dalle sue mani. E tu non temere per Giacobbe poiché il protettore di Giacobbe è più grande, potente, onorato e celebrato di quello di Esau. E Rebecca mandò a chiamare Esau e questi venne presso di lei ed ella gli disse, «Figlio mio, ho da farti una richiesta. Dimmi, che farai quel che dico, o figlio mio?» Ed egli le disse, «Farò tutto quello che mi dirai. Io non dirò di no a qualsiasi tua preghiera». Ed ella gli disse, «Io ti chiego che, nel giorno in cui morrò, tu mi introduca, e seppellisca vicino a Sara, madre di tuo padre e che tu e Giacobbe, tuo fratello, vi amiate a vicenda e che, affinché prosperiate e siate onorati in terra, non cerchi, l'uno, il male del proprio fratello, ma l'amore. Il nemico non si rallegrerà contro di voi, e voi sarete per la benedizione e la misericordia davanti agli occhi di tutti quelli che vi amano. Ed egli disse, io farò tutto quel che mi dici e ti seppellirò, nel giorno della tua morte, vicino a Sara, madre di mio padre, così come vuoi, affinché le sue ossa siano vicino alle tue. E io amo mio fratello Giacobbe più di ogni altra creatura e non ho fratelli, in tutta la terra, all'infuori di lui solo. E, se lo amo, non è gran cosa, per me, poiché egli è mio fratello. Siamo stati seminati insieme nel tuo seno ed insieme siamo usciti dalle tue viscere, se io non amo mio fratello, chi amo? Ed io stesso ti imploro di ammonire Giacobbe a proposito di me e dei miei figli, perché io so che, quanto a regnare, Egli regnerà su me e sui miei figli, poiché mio padre, quando lo benedì, pose lui sopra e me sotto. Ed io ti giuro che lo amerò e che, per tutto il tempo della mia vita, non cercherò il suo male, ma il suo bene. Ed egli le giurò su tutte queste cose. Ed ella chiamò Giacobbe al cospetto di Esaù e gli diede ordini secondo le parole che si era dette con Esaù. E Giacobbe disse, «Io farò la tua volontà. Abbi fede in me che non sortirà, da me e dai miei figli, alcun male per Esaù, mio fratello, e che io non sarò primo in altro che in amore». E mangiarono e bevvero, lei e i suoi figli, in quella notte, ed ella morì, all'età di 3 giubilei, un settennio e un anno, in quella notte. E ambedue i suoi figli, Esaù e Giacobbe, la seppellirono nella grotta, vicino a Sara, madre di loro padre. E, nel sesto anno di questo settennio, Isacco chiamò i due suoi figli Esaù e Giacobbe, che vennero presso di lui, ed egli disse loro, «Figli miei, io vado nella via dei miei padri nella casa eterna, dove stanno i miei padri. Seppellitemi vicino ad Abramo, mio padre, nella grotta doppia nei campi di Efron l'Eteo, che Abramo acquistò per monumento sepolcrale. Seppellitemi colà. Ed io, o figli miei, vi ordino ciò, che voi facciate giustizia e rettitudine sulla terra affinché il Signore vi apporti tutto quanto disse che avrebbe fatto ad Abramo e alla sua stirpe. E vivete, figli miei, fra di voi, amando i vostri fratelli come voi stessi, e cercando ciò che è bene per loro, per agire insieme concordemente sulla terra ed amarsi, vicendevolmente, come loro stessi. E, quanto alla questione degli idoli, io vi ordino di disprezzarli, detestarli, combatterli e non amarli, perché essi sono pieni di errore per coloro che li adorano e si prostrano ad essi. Ricordatevi, o figli miei, del Signore, Dio di Abramo, vostro padre, inoltre, che anche io l'ho adorato e servito in giustizia affinché egli vi faccia abbondare nella gioia e renda grande la vostra stirpe come le stelle del cielo. Per l'abbondanza, e vi pianti, nella terra, come pianta di giustizia che non sarà, in eterno, sradicata. Ed ora io vi faccio giurare con un grande giuramento, poiché non vi è giuramento maggiore di quello fatto nel nome lodato, onorato e grande di colui che ha fatto il cielo, la terra e tutte le cose insieme, che voi lo temerete e lo adorerete, e che ognuno di voi amerà il proprio fratello con misericordia e giustizia, e che, affinché prosperiate in tutte le vostre azioni, e non vi perdiate, nessuno vorrà, da oggi nei secoli, per tutto il tempo della vostra vita, il male del proprio fratello. E, se vi è qualcuno di voi che cerchi il male del proprio fratello, sappiate fin d'ora che chiunque cerchi il male del proprio fratello cadrà nella sua mano, sarà sradicato dalla terra dei viventi e anche la sua stirpe si perderà da sotto al cielo. E nel giorno della maledizione e dello strepito egli, col fuoco divoratore, così come bruciò Sodoma, brucerà la terra del peccatore, Il suo paese e tutto quel che gli apparterrà, ed egli sarà cancellato dal libro del rimprovero dei figli dell'uomo, e non sarà iscritto nel libro della vita. Poiché egli è destinato a perdersi e passerà alla maledizione eterna sì che la loro condanna sia, per sempre, rinnovantesi in ignominia, maledizione, ira, spasimi, rabbia, flagelli e malattie eterne. Io vi dico, e vi testimonio, figli miei, com'è la mia condanna che arriva su colui che vuol far cosa prava contro il proprio fratello. E divise tutti i suoi beni fra loro due, in quel giorno, e dette la maggior parte a colui del quale precedeva la nascita. La torre e tutti i suoi dintorni e quel che Abramo possedeva al pozzo del giuramento. E disse, questa parte maggiore la accresco al primogenito. E disse Esau, ho venduto e dato la mia primogenitura a Giacobbe. Esse gli ha dato a lui ed io non ho nulla da dire a proposito di essa poiché essa, primogenitura, sta presso di lui. E disse Isacco, la mia benedizione, o figli miei, si poggi su voi e sulla vostra stirpe, in questo giorno, poiché mi avete tranquillizzato. E il mio cuore non si duole a causa della primogenitura. Che tu non faccia, a causa di essa, cose malvagie. Benedica, il Signore eccelso. Colui che opera la giustizia, benedica lui e la sua stirpe, nei secoli. E finì di dar loro ordini e di benedirli. Ed essi mangiarono e bevvero innanzi a lui ed egli si rallegrò poiché vi era stata la pacificazione fra loro ed essi uscirono dal suo cospetto e si riposarono in quella notte e si addormentarono. E Isacco si addormentò, quel giorno, rallegrandosi, nel suo letto e dormì il sonno eterno, a 180 anni. Compì 25 settenni e 5 anni e i suoi figli, Esau e Giacobbe, lo seppellirono. Ed Esau andò nella terra di Edom, sulle montagne di Seir, e stette colà. E Giacobbe si fermò nella montagna di Hebron, nella torre della terra della emigrazione di suo padre, Abramo, e adorò il Signore con tutto il suo cuore, e secondo il suo ordine che dimostrava in qual modo aveva distinto il tempo della sua nascita. Ela, sua moglie. Morì il quarto anno del secondo settennio del 45° giubileo, e la seppellì nella grotta doppia, vicino a sua madre Rebecca, e a sinistra della tomba di Sara, madre di suo padre. E tutti i figli di lui e i figli di lei vennero a piangere la sua moglie, insieme con lui, e a consolarlo. A causa di lei poiché egli la piangeva dato che, da quando era morta Rachele, sua sorella, egli la aveva amata assai. Poiché ella era perfetta e retta in tutto il suo agire, onorava Giacobbe e, in tutto il tempo della vita con lui, egli, dalla bocca di lei, non aveva mai udito una parola aspra. Poiché era mansueta ed in lei vi era rettitudine, pace ed onore. Ed egli si ricordò di tutte le azioni che ella aveva fatto durante la propria vita, e la piangeva assai poiché la amava assai, con tutto il cuore e l'anima. Esau. E nel giorno in cui Isacco, padre di Giacobbe e di Esaù, morì. I figli di Esaù, quando udirono che Isacco aveva dato la primogenitura a Giacobbe, figlio minore, si adirarono assai. Ed altercarono col loro padre dicendo, «Perché, mentre eri tu il maggiore e Giacobbe era il minore, tuo padre ha dato la primogenitura a Giacobbe e ti ha destituito?» Ed egli disse loro, «Perché io ho venduto la mia primogenitura a Giacobbe per un esiguo piatto di lenticchie, quando mio padre mi mandò a caccia, perché gli portassi da mangiare e mi benedicesse. Egli, Giacobbe, venne con l'inganno, portò a mio padre cibo, e bevanda e mio padre lo benedì e mi pose sotto di lui. Ed anche adesso nostro padre ci ha fatto giurare, a me e lui, che non ci saremmo cercati il male scambievolmente, l'uno contro il proprio fratello, che saremmo stati in amore e in pace e che non avremmo corrotto il nostro modo di vivere». Ed essi gli dissero, «Noi non ti consentiamo di far pace con lui, poiché la nostra forza è più forte della sua e noi siamo più forti di lui. Noi andremo contro di lui, lo uccideremo e disperderemo i suoi figli e, se tu non verrai con noi, noi faremo male anche a te. Ed ora ascoltaci, mandiamo in Aram, nella Filistea, in Moab e Ammone e scegliamo per noi stessi, uomini scelti che siano animosi in combattimento. Andiamo contro di lui, combattiamo con lui, e sradichiamolo dalla terra prima che egli prenda radici e forza». E disse loro il loro padre, «Non andate, affinché non cadiate innanzi a lui, non fate guerra con lui». Ed essi gli dissero, «Anche ciò è in conformità a come tu hai agito dalla tua giovinezza fino ad ora. Tu metterai il tuo collo sotto il suo giogo. Noi, in ciò, non ti approviamo». E mandarono in Aram e ad Adiram, presso un amico del loro padre. E condussero con esse 1000 uomini, combattenti scelti. E da Moab e dai figli di Ammon vennero, presso di loro, coloro che erano stati assoldati, 1000 scelti e, dalla Filistea, 1000 combattenti scelti e da Edom e dagli Urriti. 1000 combattenti scelti e, dai Chittim, forti combattenti. E dissero al loro padre, «Esci, guidali, altrimenti ti uccidiamo». Ed egli si riempì di ira e di rabbia allorché vide che i suoi figli lo costringevano ad andare innanzi per guidarli presso Giacobbe, suo fratello. Si ricordò, allora, di tutta la cattiveria che era nascosta nel suo cuore contro suo fratello Giacobbe e non si ricordò del giuramento che aveva fatto a suo padre e a sua madre che, cioè, non avrebbe cercato, per tutto il tempo della sua vita, il male di Giacobbe, suo fratello. In tutto ciò, Giacobbe non sapeva che essi venivano da lui per combattere, e se ne stette a piangere la propria moglie, là, fin quando si avvicinarono a lui, vicino alla torre, in 4000, combattenti forti e scelti. E gli uomini di Ebron, poiché amavano Giacobbe più di Esaù, e dicevano di lui che Giacobbe era più generoso e misericordioso di Esaù, gli mandarono a dire, «Ecco, tuo fratello è venuto a combatterti. Sono in 4000, cinti di spada, portano scudi ed armi». E Giacobbe non credette a ciò, fin quando si avvicinò nei pressi della torre. E chiuse la porta della torre e stette sotto i merli della torre. Parlò con suo fratello Esau e disse: «Mi dai una bella consolazione. Sei venuto da me a causa di mia moglie che è morta? È questo il giuramento che giurasti a tuo padre e a tua madre, per due volte, prima che morissero? Sei venuto meno al giuramento, e dato che giurasti a tuo padre, sei stato condannato». Ed Esau gli rispose: per i figli dell'uomo, per le fiere della terra vi è giuramento di giustizia che essi abbiano giurato per l'eternità. E, ogni giorno, uno cerca il male dell'altro e, ognuno, di uccidere il proprio nemico. Tu odii me ed i miei figli, in eterno, e non veda avere, con te, amore fraterno. Ascolta quel che io ti dico: se il porco cambierà la sua pelle e le sue setole in lana e se sulla testa gli spunteranno corna come quelle di cervo e pecora, allora io farò fraternità con te. Se le mammelle si separeranno dalle madri, poiché non ti sono fratello, e se i lupi, per non mangiarli e non violentarli, faranno pace con gli agnelli. E se i loro cuori saranno rivolti al bene verso loro, allora vi sarà, nel mio cuore, pace con te. E se il leone diventerà amico del bue e si sarà soggiogato, insieme con esso, sotto lo stesso giogo ed arerà con esso, allora io farò pace con te. E se il cervo diventerà bianco come il riso, allora io saprò che ti ho amato e farò pace con te. Sii sradicato, tu e i tuoi figli, e non vi sia pace. Ed allora Giacobbe vide che aveva incattivito il suo cuore contro di lui, e con tutto esse stesso, per ucciderlo e che era venuto saltando come un cinghiale che sia capitato sulla lancia che lo ferisce, e uccide e non si libera da essa. E, allora, disse ai suoi servi di muovere contro di lui e contro tutti i suoi amici. E, allora, Giuda disse a Giacobbe, suo padre: «Tendi, padre, il tuo arco, scaglia la tua freccia, ferisci e uccidi l'avversario e sia, a te, la forza dato che noi non uccideremo tuo fratello e per te presso te, e per noi, a onore». E, allora, Giacobbe tese il suo arco, scagliò la freccia, colpì il fratello Esau e lo uccise. E lanciò un'altra volta la sua freccia e colpì Adaran, l'arameo, alla mammella sinistra, lo inseguì e lo uccise. Poi uscirono i figli di Giacobbe, loro e i loro servi, divisi, ai quattro lati della torre. Giuda uscì per la parte anteriore e, con lui, Neftali, Gad e 50 servi, per il lato sud della torre. Ed uccisero tutti quelli che si trovarono innanzi a loro, e non scampò alcuno. Levi, Dan e Aser uscirono dal lato est della torre, e 50 erano con loro. Ed uccisero i combattenti di Moab e di Ammon. Ruben, Issacar e Zabulon uscirono per il lato a nord della torre, e 50 insieme con loro ed uccisero i combattenti dei Filistei. Simeone, Beniamino e Enosh, figlio di Ruben, uscirono per il lato ovest della torre, e 50 con loro, ed uccisero 400 forti combattenti degli Edomiti e degli Urriti. 600 fuggirono, e con essi 4 figli di Esau, e lasciarono il loro genitore Esau, ucciso, così come era accaduto sul colle che è ad Adiram. E i figli di Giacobbe li inseguirono fino al monte di Seir. Giacobbe seppellì suo fratello sul colle che è ad Adiram e tornò a casa sua. E i figli di Giacobbe oppressero, sul monte di Seir, i figli di Esau, li umiliarono a diventar servi dei figli di Giacobbe. E mandarono a chiedere a loro padre se dovevano far pace con loro o ucciderli. E Giacobbe mandò a dir loro di far pace, ed essi fecero pace con loro, e posero su di essi il giogo del servaggio affinché pagassero, per sempre, il tributo a Giacobbe e ai suoi figli. Ed essi stettero a pagar tributo a Giacobbe fin quando scese alla terra d'Egitto. E i figli di Esau non si sono liberati, fino ad oggi, dal giogo del servaggio che i 12 figli di Giacobbe avevano posto su di loro. Questi sono i re che, fino a questo periodo, regnarono nel territorio di Edom prima che vi regnasse un re appartenente ai figli di Israele. E regnò Bela, figlio di Beor, e il nome della sua città era Dinaba. Alla sua morte, al suo posto regnò Jobab, figlio di Zerah, che era da Bosra. E Jobab morì e al suo posto regnò Husham che era da Monte Teman. E Husham morì e, al suo posto, regnò Hadad, figlio di Bedad, che uccise i Madianiti nella campagna di Moab. E il nome della sua città era Avit. E Hadad morì e, al suo posto, regnò Samla, che era da Marecca. E Samla morì e, al suo posto, regnò Shaul che era di Robaal, sul fiume. E Shaul morì e, al suo posto, regnò Baalanan, figlio di Akbor. E Baalanan morì e, al suo posto, regnò Adat la cui moglie si chiamava Matilat, figlia di Matred, figlia di Metchezab. Questi sono i re che regnarono nella regione di Edom.